119. Salsa verde. Per fare la salsa verde, tritate tutto insieme con la lunetta capperi spremuti dall'aceto, un'acciuga, poca cipolla e pochissimo aglio. Stiacciate il composto con la lama di un coltello per renderlo fine e ponetelo in una salsiera. Aggiungete una buona dose di prezzemolo, tritato con qualche foglia di basilico, e sciogliete il tutto con olio fine e agro di limone. Questa salsa si presta bene coi lessi di pollo o di pesce freddi e con le uova sode o affogate. Mancando i capperi, possono servire i peperoni.